com'è che ha deciso di scrivere alla cancelliera tedesca Angela Merkel? Beh, innanzitutto la Germania è leader forse al mondo per quanto riguarda la cultura, i musei, c'è una grande attenzione, è anche uno dei pochi paesi, diciamo, al mondo che non ha fatto tagli, che non ha fatto tagli alla cultura. Ma a prescindere questo, la mia esigenza fondamentale è quella di mantenere, di salvaguardare una grande collezione di arte contemporanea. Vede, quando non hai appoggi politici e non hai appoggi delle amministrazioni di qualsiasi genere, sei solo nei luoghi dove noi operiamo, questo diventa assolutamente pericoloso, insomma. Quindi lasciare alla mercé di atti vandalici, di richieste di ogni sorta, mi porta sicuramente a dover chiedere a chi può fare qualcosa, insomma, di intervenire e di salvaguardare quest'opera. Qui il problema non è Antonio Manfredi, il direttore, o i suoi collaboratori, in realtà è proprio questo enorme patrimonio culturale che noi abbiamo messo su, insomma, che in qualche modo, senza assolutamente arrendersi, noi cercheremo con tutti i modi possibili e immaginabili di salvaguardare.